Da un certo punto di vista forse era anche l'ora che cambiasse, nel senso comunque sono stati 8 anni che, sebbene con cambiamenti di tipi di maggioranza, all'inizio col supporto dei partiti di sinistra, ma il Partito Socialista, che a dispetto del nome non ha molto di socialista, ma è un partito di centro-sinistra molto europeo, europeista e molto anche neoliberale, ha un po' esaurito il suo ciclo di governo, che è un ciclo molto complesso, che è passato per fasi più spinte a sinistra, soprattutto all'inizio, no? Nel 2016-17 con la maggioranza con i partiti di sinistra, ma poi con una deriva, diciamo, sempre più neoliberale, sempre più centrata su uno sviluppo molto dipendente, molto legato al turismo, all'immobiliare, con tutta una serie di effetti nelle politiche sociali, nelle dinamiche economiche, che inevitabilmente hanno portato, no, un po' alla fine di questo ciclo. La vittoria del centrodestra, diciamo, dell'Alleanza Democratica, era abbastanza prevedibile. In realtà hanno vinto per pochissimo, no? Per poche decine di migliaia di voti, e l'aspettativa era che vincessero con un margine più ampio, e loro speravano, al limite anche di avere una maggioranza assoluta, che non hanno avuto. In realtà, in questo, il Partito Socialista ha limitato, no, le perdite. La questione è che invece la destra ha vinto a livello nazionale, perché se sommiamo tutte le destre c'è una maggioranza assoluta in Parlamento, ma anche dei voti delle destre, grazie fondamentalmente al boom di questo partito di estrema destra che si chiama Scega, che vuol dire basta. È già il nome che è abbastanza esplicativo del tipo di approccio che ha questo partito. C'è più che le proteste, che comunque si è visto un crescere negli ultimi anni dei movimenti della lotta per la casa, e che hanno sicuramente avuto un ruolo nello spingere il tema, nello spingere alcune piccole riforme che sono state fatte, nel costruire, no, una percezione nazionale della crisi. Io penso che quello che possa avere avuto l'impatto più diretto sul crollo del Partito Socialista sono gli effetti della crisi della casa su tutta una parte, no, sociale, che sono fondamentalmente le famiglie, dei nuclei domestici giovani all'inizio, no, della loro carriera abitativa, che non riescono a trovare uno spazio abitativo, perché comprare è carissimo, affittare è carissimo. Una cosa che può essere interessante, che già si era vista in realtà nelle elezioni municipali precedenti, è stato che il Partito Socialista, quando ancora guadagnava voti, no, a livello nazionale nelle elezioni municipali del 2021, ha perso a Lisbona contro la destra, diciamo, tradizionale di quella che adesso è l'Alleanza Democratica, ed è molto probabile che quello che sia successo, che i suoi elettori fondamentalmente siano usciti da Lisbona, siano una buona parte di quelli che sono stati espulsi dai prezzi della casa, no? Famiglie giovani, tendenzialmente progressiste, con lavori qualificati, ma che non riescono ad affittare o a comprare a Lisbona, e che sono spostate, no, nei quartieri suburbani, nelle città suburbane dell'area metropolitana, proprio togliendo una parte di base elettorale al Partito Socialista. Sicuramente il tema della casa, per alcuni gruppi, che sono quelli che non hanno la casa di proprietà, e fondamentalmente appunto per le famiglie giovani, avrà avuto un impatto su questa questione. Purtroppo i movimenti sociali, che sono riusciti a costruire la narrativa, a costruire un dibattito, non credo che siano riusciti a diciamo, a portare questo piano, questo conflitto sul piano politico, perché gli unici partiti che avevano proposte serie sul tema della casa erano i due partiti di sinistra, il Partito Comunista e il Blocco di Scherda. Il blocco di sinistra. Il blocco di sinistra ha mantenuto i suoi voti, anzi ha guadagnato qualcosa, ma purtroppo non deputati. Il Partito Comunista continua a perdere, per cui in realtà la dinamica, no, tra movimenti e traiettorie politiche sembra ancora essere un po' disarticolata, purtroppo. Questo miracolo portoghese, no, per usare le parole di Krugman, molto recenti, fosse un po' un'illusione, se non addirittura un mito, che, diciamo, che se effettivamente c'era stato un piccolo periodo di recupero dalle politiche dell'austerità, della Troica, in realtà poi il modello che era stato scelto dal Partito Socialista era un modello molto diseguale, che comunque non distribuiva la ricchezza che si stava accumulando, e che prima o poi queste cose si sarebbero pagate. E in buona parte, se vediamo dove la destra estrema ha stravinto, che è in generale nel sud, nelle aree che comunque hanno visto insieme sia alcune trasformazioni più profonde, ma anche la mancanza, no, di una diffusione, di una ricchezza condivisa di queste trasformazioni, è abbastanza evidente.